La scuola in questi ultimi anni è stata sempre più bistrattata e l'idea di fondo è: tanto a cosa serve la scuola? Li mandiamo a lavorare tutti il prima possibile. Con la cultura non si mangia, slogan che ha imperversato in questo periodo. Tant'è vero che già la riforma Gelmini aveva tagliato un sacco di ore di lezione, perché adesso qui stiamo parlando dei giorni di lezione, ma c'è anche poi ogni giorno quante ore si fanno, e ci sono stati continui tagli. Addirittura è venuta fuori anche l'idea di fare un anno in meno di scuola superiore, il famoso liceo breve. Poi a questo punto è venuto fuori questa proposta dell'assessore del turismo dell'Emilia Romagna di iniziare tutti gli anni il terzo lunedì del mese per favorire il turismo balneare. Allora a questo punto tanti genitori e insegnanti si sono arrabbiati e ci hanno chiesto di fare qualcosa, in pratica per ridare dignità alla scuola, no? Per dire la cosa più importante poi per il futuro del paese, per i giovani, è che abbiano una istruzione qualificata, quindi con dei tempi congrui per poter far questo, con dei tempi più lunghi di quelli che sono adesso, che prevedono 3 mesi di vacanza, per gli studenti sto parlando naturalmente, estiva, e poi dopo una corsa fersenata per fare questi 200 giorni. Quindi un calendario: iniziare la scuola prima, agli inizi di settembre per capirci, e fare in modo quindi che ci possano essere periodi di lezione, periodi di interruzione, di recupero o altre attività. Questo è il senso, ma di fondo è una reazione a come al fatto che venivano messe avanti le esigenze economiche del turismo a quelle della scuola e della cultura. Avete raccolto molte firme, avete incontrato anche l'assessore Patrizio Bianchi, ti chiedo com'è andata. Abbiamo consegnato stamattina stampate 5.800 firme, fra quelle raccolte online e quelle su carta, anzi poi adesso sono ulteriormente aumentate, perché la raccolta online la gente continua a firmare, per fortuna. Quindi abbiamo avuto questo incontro che da una parte l'assessore ha apprezzato l'idea e il contenuto dell'appello, soprattutto la posizione a favore di attività didattiche con tempi distesi, e a questo proposito ha detto che avrebbe portato questa questione, no, di tempi più distesi, quindi in pratica vuol dire di iniziare le lezioni prima del periodo che quest'anno è stato il 15 settembre, prima del 15 settembre, al fine di consentire durante l'anno scolastico delle interruzioni per dare appunto la possibilità che si possano fare corsi di recupero e altre cose, e non ci sia questa corsa forsennata, no, per fare questi 200 giorni di lezione, che poi spesso non si riescono a fare perché fra viene la neve, poi ci sono le lezioni, poi ci sono gli scioperi, poi ci sono le occupazioni e non si riescono mai a fare, no? Quindi lui ha apprezzato tutto questo e ha detto che porterà questa proposta, invitandoci quindi a partecipare a questo organismo che è previsto in regione, che si chiama Conferenza Regionale per il Sistema Formativo, del quale fanno parte le istituzioni scolastiche, alcuni sindaci, una cosa di questo genere. Nel merito della questione dell'anno prossimo, sulla quale c'è stata la proposta dell'assessore al turismo di iniziare il lunedì successivo e poi di andare avanti tutti gli anni iniziando sempre il terzo lunedì di settembre, con la conseguenza che si sarebbe arrivati nel 2020 al 21 di settembre addirittura. Su questa cosa lui ha detto che oggi in giunta avrebbe portato la conferma del 15 per l'anno prossimo, quindi di iniziare l'anno scolastico il 15 settembre, che poi però, essendo il 15 settembre l'anno prossimo, cioè 2018, di sabato, va poi lo stesso a finire lunedì. Noi abbiamo proposto di anticipare, almeno se non di una settimana, almeno di qualche giorno, e vedremo cosa succede in giunta. Ecco, ci ha ricevuto con grande gentilezza, ci ha ringraziato per aver consentito un fenomeno ampio di partecipazione sul tema della scuola, che è molto importante, e poi dopo c'hanno i loro problemi in giunta, ecco, alla fine, in sintesi è così.